quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Io ancora non l'ho visitato, sto aspettando di visitarlo con lei, signor Presidente. Sono molto preoccupato della gestione delle bevande a quest'ora russe, pensando alla forza della tradizionale bevanda russa, quindi spero che ci arriveremo con qualcosa di già mangiato in pancia. Ma il prossimo appuntamento internazionale di grande rilievo che si terrà in Russia, ne sono tanti naturalmente, ma sarà quello del 2018 ai mondiali di calcio, dove spero invece di venire a darle qualche dispiacere insieme alla nazionale italiana. Quindi sono contento che Putin possa presentarsi per quello che è, ma anche al Santo Padre, anche al Presidente della Repubblica, ripeto, non è il nemico, non è il nemico. Si è presentato anche in Vaticano Putin, è arrivato con il record dei record, 70 minuti di ritardo, c'era Monsignor... Però pensate un po', far aspettare il Papa 70 minuti. Che segno di potere. 70 minuti. Quando è arrivato, quando è atterrato a Roma, c'era già Monsignor, com'è che si chiama? Schwein, quello che c'ha il nome come il codice fiscale. Insomma, quello che è il prete bello che assiste il Papa. Monsignor no, era quello che assisteva al Papa precedente, il tedesco Gelschwein. Vabbè, insomma, quello che era con Papa Ratzinger, l'ha atteso un'ora in piedi. In piedi, era già in piedi ad attenderlo. Dice, beh, è arrivato 70 minuti dopo con un corteo di 13 macchine presidenziali. Vladimir Vladimirovich Putin. Ma chi era la clac? Chi erano quelli? Ah, Putin! Erano dei russi, non so, all'Expo. Monsignor Genschwein, eccolo lì. Allora, buongiorno. Spiezza in due. No, ma che spiezza in due, fai il bravo. Fa il bravo Peter Bescapè, che ieri hai festeggiato i tuoi 24 anni d'alpino ed sei qui in regia insieme a Lorenzo Nespoli in redazione. Come sempre sono le 6:31 minuti, questo è 24 mattino, eh? C'è anche un numero per i vostri sms al 349-238-6666, mentre l'inno russo, le note dell'inno russo echeggiano qui a Radio 24. Ecco, devo dire che noi oggi abbiamo un altro Vladimir che alla quale non è molto simpatico, peraltro, il Vladimir Putin, eh? Vabbè, abbiamo Vladimir Luxuria, buongiorno, benvenuta, eccoci. Buongiorno. Non ti è molto simpatico Putin, lo so, eh? No, diciamo pure che non mi è per niente simpatico. Stai attenta però, perché... Ma è ancora a Roma? O è ripartito? Ah, non lo so, guarda, non faccio parte della delegazione degli scendiletto, degli zerbini di Putin. No, non sei andata a incrociarlo, magari, non so, potevi dirgli qualcosa, magari lo incrociavi, no? Ho altro da fare. Altro da fare, vabbè, Vladimir Luxuria, altro da fare. C'era Putin, uno dei tuoi nemici più acerrimi a Roma, e hai perso l'occasione di incrociarlo, e va bene. Allora, Vladimir Luzzura, che ricordo conduce il Geco e la Farfalla su Radio Capital dalle lunedì al venerdì alle 9. Oh, così abbiamo fatto pubblicità anche a Radio Capital. Evviva, saranno molto contenti qui a Radio 24. E insieme a Chiara insieme piace scrivere. Chi è questo? Lei sa che è importante parlare. Ma chi è che canta questo? Gente, i gemelli diversi, i gemelli diversi. Per lei non ha. Per Chiara Geloni. Ma io mi ero così ero in piedi a ascoltare l'inno russo e mi metti i gemelli diversi. Perché? Non lo so, perché, perché parlano di Chiara e quindi. Ho capito. Non l'avevo colto. Non avevi colto. Non sei una fan dei gemelli diversi. No, ma neanch'io. Neanch'io, così. Però vabbè, adesso tu l'hai incrociato Putin a Roma? No, ho sentito un elicottero sopra la testa costantemente per circa 2 ore e quindi penso che fosse a causa della sua presenza. Che temevano? Un attacco dal cielo? Ah, non lo so, sì, motivi di sicurezza. Il territorio e fonde le nostre orecchie, però vabbè, poi hanno smesso, quindi forse è ripartito. È ripartito. Comunque sì. Posso darti uno scoop e posso dirti chi era a fare la clac a Putin. Chi era? È una donna che si chiama Adelina Putin, è veneta e si era candidata nelle liste regionali del Veneto con Fratelli d'Italia, dicendo che era la cugina di Putin. Però purtroppo non ce l'ha fatta essere eletta e quindi da sedicente cugina è andata ad accogliere. È vero. Ho letto anch'io di questa candidata, ma è la cugina veramente? Non si sa. Ma figurati, è come la nipote di Mubarak. Dici, attenzione, accuse pesanti volano da Vladimir Luxuria nei confronti di questa sedicente parente di Putin che si è candidata. Sì, avrà portato qualche amica, esatto. Sì, perché non ho mai visto gente scatenata così quando Putin era. Esatto. Ho detto chi è? Anche se in realtà il suo cognome etimologicamente non viene dal russo ma dal veneto putea, che vuol dire ragazza. Quindi vabbè. E forse si dice anche Putin, visto Putin, come Putin, si pronunciano di solito Putin, Putin, sarà Putin, sarà veneta. Vabbè, e che dobbiamo fare? Apriamo il Parlamento? Ah, un bel Parlamento, un Parlamento adesso molto ricco. Vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Allora, però io vorrei entrambe vivete a Roma. Confermi. non sei di Carrara, tu. Hai detto vivete. Vivete a Roma. Allora, oggi c'è questo straordinario articolo di Francesco Merlo che segue per una giornata Ignazio Marino su Repubblica. E dopo lo leggerò la rassegna stampa, no? E proprio dall'idea di Francesco Merlo, dall'idea del marziano Marino, cioè lui parla, come dire, di alcune cose tipo: lei non ha idea di quanta solidarietà mi arrivi da Stati Uniti e Australia. Questa è una delle frasi di Ignazio Marino. Oppure: quando ero in ospedale avevo un semaforo che quando uno alzava la voce cambiava colore, appariva il rosso. Ecco, vorrei metterlo in consiglio comunale di Roma, il semaforo, quando uno grida rosso. Cioè, capite che appare un po' come un marziano o no, Vladimir? Appare è così, eppure non cede di un passo, non cede di un millimetro. Tutti dicono che al prossimo indagato Marino è lì per cadere e lui non cede di un millimetro, fa bene? Lo volevano già fare fuori, secondo me, lo stesso PD prima che scoppiasse tutto questo scandalo. In realtà, guarda, è vero, lo si può criticare Marino, poi anche questa cosa che fa il segno della vittoria durante proprio la bagarre in Campidoglio, però alla fine Marino è uno che è uno pulito, è un onesto. Allora, io non lo so se adesso se devono pagare anche gli onesti per sì, però io dico, ma non è un uomo solo al comando, cioè, perché adesso si è scoperto che anche il vice sindaco Luigi Nieri parlava con Buzzi e mentre gli parlavo della cooperativa Nieri mi diceva: sì, ma poi mi piazzi questo, mi assumi quest'altro. Cioè, ma che deve succedere? Io non lo so, non è un giudizio tanto su Marino, ma mi sembra di capire che sia tutto un po' una cloaca, no? O no, forse un po' esagerato. Chiara, aiutami te. Allora, io sono d'accordo con Vladimir, credo anch'io nell'onestà di Marino, e anche il suo essere un marziano insomma fa parte del suo personaggio ed è diventata un po' la sua forza. In questa situazione che si è creata, cioè la sua forza, perché? Far finta che non stia succedendo no, nulla? Perché no? È vero che lui, come mi pare che dica in questo articolo di cui ho visto solo qualche riga per ora, dice che ha dei nemici anche dentro il PD romano, sì, che sì, aveva sì, da prima sì. E quindi essere un lui po' dice, il partito sta con me, sono i capi bastone romani, a me questo che linguaggio non piace il partito molto. Stavo arrivando a dire questo questo modo di parlare lo capisco nel contesto, ma non mi piace molto, così come non mi piacevano molto alcuni aspetti della sua campagna quando si è candidato con lo slogan non è politica è Roma. Io l'ho votato Marino, ma se non è politica non so cos'è quando vado a votare. No? Che hai fatto? Hai turato il naso? L'hai votato? No, l'ho votato volentieri perché sapevo di votare una persona onesta e infatti ne sono ancora convinta. Ma sono convinta anch'io che sia una persona onesta. Quello che proprio vorresti votare. Ma comunque, voglio dire, l'ho votato convintamente e anche sostenendo. Adesso, per arrivare a risponderti... c'è un problema, insomma, lui continua a dire io non mi sono accorto di niente e nel suo personaggio ci sta e io gli credo, solo che poi arriviamo forse a un punto in cui non essersi accorti di niente diventa un po' un problema. Esatto, e infatti cioè, non è questione di mettere in dubbio l'onestà della persona. Anch'io credo che Marino sia una persona, per il poco che l'ho conosciuto in politica, voglio dire, uno che viene da essere stato un chirurgo, che a un certo punto della vita ha fatto politica. Anch'io credo sia una persona onesta, allora, no, Vladimir? Non è neanche che avere fatto politica sia una colpa e averla fatto per tutta la vita un po' sì, dai, un po' sì, dai, facciamo un po' i qualunquisti. Non è vero, ecco, ok. Facciamo un po' i qualunquisti, dai, un po'. No, non è un vero. Po' sì, un po' sì, un po' sì. Vabbè, ma insomma, ma oggi stravince lui il personaggio e qui abbiamo ancora una volta, grazie a Vladimir Luxuria, la tua conoscenza delle lingue, l'inglese, il pugliese, il no, ti prego, no. Come sei messa con il molfettese? L'altra volta ci hai aiutato col cerignolese o il cerignolano. È più facile il russo, secondo me. Questa... Perché guarda, sono dialetti strettissimi, sono veramente incomprensibili. Vabbè, okay. Ma tu di dove sei esattamente? Io sono di Foggia. Di Foggia. E quindi insomma, molfetta non lo capisci. No, se il dialetto stretto, quello delle persone un po' più grandi, è davvero incomprensibile. Vabbè, adesso ci proveremo. Comunque, stiamo per parlare del caso del giorno, il politico per il quale hanno chiesto l'arresto, NCD Azzollini, uno che ha già avuto qualche problema in passato. In pratica l'hanno accusato di avere gestito tutto l'ex manicomio, insomma, di Molfetta, insomma, dove c'era una congregazione di suore. Era diventato lui un po' il dominus, tanto che in una intercettazione pare che abbia detto anche a queste suore: qui comando io oppure vi piscio in bocca, cioè in maniera... E tra l'altro c'è il testimone che dice: e come sono uscite le suore da quell'incontro? È un po' turbate sono uscite dopo questa minaccia di Azzollini. Azzollini era già famoso nel 2008 per avere litigato in consiglio comunale a Molfetta. E qui veniamo Vladimir, attenzione, metti bene le cuffie. Sì, ecco, okay, pronto, Azzollini. L'ho sentito parlare il religioso silenzio per un'ora e l'ho sentito disprezzare le donne. Noi che invece siamo orgogliosi di averne del consiglio comunale, noi siamo per le donne, vergogliamo! E parla tanto, sciatana! Perché sulle donne ci andrà di più. E parla con questo, guarda! Vabbè, in realtà parla un po' italiano, però qualche cosa l'ha detta, forse un paio di imprecazioni, non lo so, è dura, capisco. No, ha parlato in italiano e poi credo diceva state zitti, questo almeno ho letto sui giornali. Litigava perché non c'erano abbastanza donne in consiglio comunale e se la prendeva all'epoca. Vabbè, ma comunque l'avete vista questa vicenda di questo Azzollini che pare possa davvero... Oh, ma il partito di Alfano ha qualche problema? problema, Vladimir, hai visto? Sì, devo dire di sì, effettivamente un po' di problemi. Poi, insomma, tutti questi che siamo cattolici, crediamo nei valori della Chiesa, eccetera, eccetera. E poi insomma si scopre che usano questo linguaggio. Gestiva le suore, infatti. Io sono rimasta un po', ero rimasta al famoso vi piccio in testa di Sgarbi, che adesso sembra quasi quasi più una frase da educande, rispetto a quello che ha detto questo. Lui smentisce per la verità, ma c'è un testimone che dice: no, ha incontrato le suore, gli ha detto si fa così, oppure vabbè. La roba lì, che devi fare? È la politica, bellezza, come la politica non sarebbe proprio questa cosa. No, adesso... diamo definizioni un po' azzardate. Vabbè, che dobbiamo fare? No, però comunque oggi dai una richiesta d'arresto dentro NCD fa curriculum. Dai, diciamoci. Eccola lì. La tocca piano, come si suol dire in gergo. E beh, effettivamente, però, c'è il sottosegretario Castiglione che è indagato. Adesso per Azzollini hanno fatto una richiesta di arresto, quindi si dovrà pronunciare il Parlamento, essendo senatore. Chiara Geloni, c'è qualche problema politico per Renzi, visto che NCD sostiene il governo? C'è qualche problema per la maggioranza e credo... E un po' tu ci godi, un pochino, vedi Renzi un po' così in difficoltà. Ma non è, il problema non è godere, vedere Renzi in difficoltà, secondo me, semmai, aiutarlo a cambiare un po' approccio, ma adesso questo problema... Per una volta, diciamo, non è colpa della minoranza del PD, no? Questa cosa. No. I veri problemi di Renzi non sono a causa della minoranza PD. Io mi chiedo anche, mi sono chiesta anche ieri se quei voti che sono mancati in commissione che hanno mandato sotto il governo sulla scuola giorni fa, che provenivano proprio da quell'area politica, magari non sono mancati proprio perché c'era un segnale di nervosismo. Ma qualcuno l'ha detto, del nuovo centrodestra. Qualcuno l'ha fatto notare, cioè il nuovo centrodestra non si è presentato in commissione per far, come dire, lanciare un messaggio. Dico, forse anche perché erano attese notizie dalla Puglia. Dici? Può darsi che si sapesse. Ma comunque, qui insomma per un anno Renzi è andato avanti risolvendo i problemi, approcciando sempre i problemi, ho detto una parola bruttissima, vabbè scusate, cioè approcciando? Ma non è brutta, ci sono parole peggiori. Ha preso sempre tutti i problemi di petto, anche nei rapporti politici con i partiti alleati, con il centrodestra. Insomma, a un certo punto se l'è vista sempre con Alfano dicendo io fai come dico io o te ne vai. Cominci a fare un po' politica, nel senso che intendo io, non nel senso che intendi tu, affrontare i problemi politici senza sempre pensare di poterli prendere dal punto di vista muscolare, anche perché in questo momento i muscoli per prenderli in quel modo non ce li ha, non è cattiveria mia. Ci ha messo su un po' di pancetta. È che ha perso un po' di voti più che altro, quindi deve tener conto di più cose. A proposito di affrontare i problemi, dopo il traffico vorrei capire se avete fatto un salto per caso in questi giorni a Tiburtina, dove c'è un bivacco, oppure in stazione centrale a Milano. Insomma, se avete visto... Questa nuova situazione che c'è con gente nella civilissima Roma, nella civilissima Milano, nella civilissima Italia che bivacca da giorni così senza un posto dove dormire, dove mangiare, dove andare al bagno. È la situazione dei migranti, che è una situazione che viene gestita in Italia secondo me un po' da paese del terzo mondo, però tra poco ne parliamo. Milano è da anni sul posto del traffico. 24 mattino. Ciao Milan, volevo dirti questo, io ho 60 anni, sono stato buttato fuori dal lavoro con quella legge di Renzi dei licenziamenti collettivi. Sono due mesi che sono in mobilità, stamattina ho preso i soldi, ho preso 670 euro dopo 40 anni di lavoro. L'Italia è messa peggio della Grecia, è inutile che vado a raccontare puttanate. Ciao Milan, suggerisco una soluzione per il debito greco verso l'Europa. Perché non prendono loro i migranti e l'Europa gli toglie il debito? Ciao. Signor Milan, noi vogliamo la soddisfazione, almeno una volta all'anno, ti vogliamo vedere incazzato, ti vogliamo vedere furioso, ma tu sei furbo, da turni io ti metto attorno a tutti che bello guaglione, mo ci manca la signorina Bosch e poi l'opera è compiuta, capisci? Tu sei furbacchione, non puoi essere mai incazzato. Ma che furbacchione, furbacchione. Allora, sono con Vladimir Luxuria e Chiara Geloni. Allora, avete visto, non so Vladimir, tu hai visto nel tuo quartiere cambiare un po' la situazione oppure non ci sono arrivati lì i vari migranti? Ma qualcuno c'è, nel senso che mi sono fatto qui l'isola pedonale nuova con delle panchine bellissime che, insomma, dove qualcuno in realtà invece... ci dorme. Io quando esco la mattina presto li vedo che stanno lì a dormire. Ma dai, ma loro sono vittime, per carità, ma sarà una situazione vergognosa, ma com'è possibile? Infatti guarda, io non me la prendo né con loro né con quelli che vicino alla stazione Tiburtina stanno lì con i cartoni dove dormono, dove fanno i loro bisogni. Perché chi ce li manda lì, nel senso che lì c'era un centro d'accoglienza vicino che si chiama Baobab, dove ce n'erano delle centinaia, poi dopo ne sono arrivati altri e il centro non ce l'ha fatto più a prenderli, adesso questi stanno tutti lì intorno alla stazione Tiburtina. Ovviamente ci sono dei problemi che non c'erano mai stati prima con questo centro d'accoglienza, tra i commercianti e gli abitanti, sì, perché ovviamente vedono questa situazione e si chiedono come mai è possibile che oggi nel 2015 in Italia ci possano essere situazioni sinceramente che dovrebbero far vergognare non loro che stanno lì a dormire, ma chi ha consentito una situazione del genere. Ma capisco l'emergenza, c'è un'emergenza, quindi, ma uno Stato che non sa fronteggiare un'emergenza, per cui uno va alla stazione centrale, ci sono dei bivacchi, c'è il capo dell'ASL di Milano che ha detto, ho fatto qui un giro, ma c'è il rischio di scabbia, malaria, ma la stazione centrale di Milano come la stazione Tiburtina di Roma, ma non è che stiamo parlando dell'ultimo angolino, cioè dove ci sono il primo biglietto da visita per molti che vengono a visitare l'Expo da tutto il mondo, ma uno arriva a Milano, sbarca da Londra, poi va in stazione centrale, vede una scena del genere e dice, ma chi è qua? Non so, sentite Maroni, poi ti chiedo un parere, Chiara. Maroni. In ogni caso Renzi fa le stesse cose che faccio io. Lui vuole premiare i sindaci che accolgono i clandestini, io premierò i sindaci che dicono che ad accogliere. Era da Belpietro, no vabbè, poi questo è l'atteggiamento, io ti do più soldi, io te li metto, io te li ridò, io te li tolgo, come ho detto io, specchio riflesso, insomma siamo alla terza elementare. Va bene, Chiara Geloni, allora. Ma infatti il problema è che non ci si rende conto, capisco che la politica... Questa questione crea un problema di consenso molto grande e non lo sottovaluto, però qui non si capisce e non si aiuta la gente a capire che non è la solidarietà verso queste persone a creare il problema, è la mancanza di solidarietà a creare il problema, perché se a Milano poi viene fuori la scabbia e magari se la prende anche qualcuno che non ha la pelle scura ma ha la pelle chiara, questo è perché ci si assume la responsabilità di creare delle situazioni incivili nella propria città, per egoismo, nella propria città, nella propria regione, perché quando diciamo lo Stato, poi lo Stato è fatto di presidenti di regione, di sindaci, di cittadini, oltre che di istituzioni nazionali, che pensano di poter affrontare il problema dell'immigrazione dicendo a casa mia no. E nessuno, forse salvo Papa Francesco, gli spiega che casa nostra è il mondo, si devono gestire, se tu dici ok gestiscilo, ma io non li voglio, quell'altro non li vuole, è logico che rimangono alla stazione, no? Perché il centro, come dice Vladimir, è pieno, e quando è pieno non ce ne sono più. Ah sì, beh, è chiaro, qui le strutture che abbiamo avuto finora non bastano più, ma non perché

nei termini in cui lui l'ha detto, no, lui ha giustamente messo dei picchetti su alcune categorie non sanabili, ma non è che il resto può essere trattato come se nulla fosse accaduto. Del resto il governo ha impugnato una legge della regione Campania che riapriva i termini della sanatoria del 2003, quindi sì, non credo che faranno diversamente essendo cambiata la guida della regione, ma anche se De Luca dice ha escluso tutta una serie di categorie, l'abbiamo, però sì, se ha aggiunto, io non l'ho fatto sentire, ma se un povero Cristo in un angolo della Campania, senza fare danni al paesaggio, si è fatto un piccolo abuso, facciamo una sanatoria e via. Sì, però questo è un caso che è sempre stato avanzato in occasione di tutte le sanatorie precedenti, che hanno sempre prodotto valanghe di cemento abusivo e di affari per l'illegalità, perché poi questo è, nel senso, se uno va a vedere i picchi dell'abusismo in Italia, sono sempre legati alle sanatorie, la sanatoria degli anni 80, quella degli anni 90 di Berlusconi, quella del 2003 sempre di Berlusconi, no? Che hanno prodotto valanghe di cemento abusivo e di illegalità, perché poi l'abusivo significa tante cose, significa non solo, diciamo, evadere le leggi, significa economia in nero, significa economia illegale, significa spesso pericolo. Io ricordo che in Campania, tanto per fare un esempio, nel 2006 quattro persone sono morte a Ischia perché avevano costruito una casa abusiva in un luogo dove c'era una frana. Quello però è il caso di De Luca, uno dei quali a dire in quel caso abbattere. Il discorso del poveraccio, dell'abusivismo di necessità, per così dire, è un discorso che è stato sempre presentato come il caso da risolvere, ma in realtà sappiamo benissimo che tantissime delle case abusive sono legate non all'abusismo di necessità, sono costruite sulle coste, sono costruite in posti belli, sono costruite case che hanno più appartamenti, perché poi il problema è che uno alla fine lucra sull'illegalità. Allora io dico, se vogliamo fare un ragionamento serio, no? Oltre a cominciare a demolire le case, che è l'unica maniera che ferma l'abusivismo, ferma questa illegalità, cominciamo a dare per acquisito che chi ha fatto profitto sull'illegalità non viene premiato, quindi per capirci, faccio un'ipotesi, no? Ci sono dei casi di necessità veri, perché poi affittare, siamo in campagna, far figurare una casa a carico di un nullatenente è una pratica che posso immaginare non difficile, ecco, mettiamola così, no? Vogliamo veramente risolvere dei casi di effettiva necessità? Bene, acquisiamo al patrimonio pubblico queste case. No? Se queste case hanno le loro caratteristiche per essere abitate, perché alcune sono anche case che hanno elementi di insicurezza, per esempio, e che fa lo Stato? Lo Stato acquisisce una casa abusiva di fatto? Sì. E poi? E se c'è un problema di necessità, la riassegna a chi ha un problema di necessità, ma impedisce che chi ha costruito una casa abusiva poi la venda. Però mi faccia capire, Realacci, perché voglio presentarle anche un altro ospite. Cioè, lei mi sta dicendo che comunque il governo dovrebbe impugnare una qualsiasi tipo di sanatoria per... Ma che ha fatto? No, ma dovesse De Luca, De Luca proporla. Se De Luca propone, ma io ho parlato già con De Luca, perché erano uscite queste dichiarazioni, l'ho incrociato, E che anche perché sono il presidente della commissione del territorio della Camera, quindi non è che passa da qualche altra parte. Detti? Lui mi ha detto che è un problema che dobbiamo capire, che lui non ha in mente una sanatoria, però ci sono stati scambi di battute per capirci. Però così ha detto, in realtà fuori da quei tre casi lui dice io penserei a una sanatoria. Non bastano quei tre casi non bastano assolutamente, non basta, perché assolutamente bisogna impedire che chi ha commesso un'illegalità tragga profitto da quello, in questa maniera penalizzando chi agisce nella legge. Allora, no, ma chi ha costruito secondo le regole, ha pagato, ha fatto lavori non in nero, quindi ha pagato il fisco, viene penalizzato rispetto a chi ha fatto un'illegalità. Io, onorevole Realacci, le voglio presentare, perché l'abusivismo è un problema che riguarda veramente tutta Italia, adesso ci siamo concentrati sulla campagna. Il procuratore aggiunto di Agrigento, Ignazio Fonzo. Procuratore, buongiorno e grazie per essere con noi, ovviamente. niente. Buongiorno, grazie a voi. Perché lei, procuratore, ha mandato una lettera, la procura ha mandato una lettera di recente. Sappiamo che nella Valle dei Templi, Agrigento, il problema dell'abusivismo c'è e c'è una nuova amministrazione, però ho letto sui giornali che in pratica la procura ha detto demolitele queste case perché ci sono troppi rimpalli di responsabilità. Intanto ci aiuti a capire chi deve demolire eventualmente gli abusi ad Agrigento, come in tutta Italia. Allora intanto cominciamo con un minimo di ordine. Ho sentito il presidente Realacci che ha detto delle cose molto corrette dal punto di vista giuridico. Il problema è questo: noi abbiamo una serie di sentenze già passate in giudicato che specialmente all'interno del perimetro della Valle dei Templi hanno disposto la demolizione di manufatti abusivi perché c'è un vincolo di inedificabilità assoluta. Quanti sono più o meno gli edifici? Quelli all'interno della valle saranno una trentina, all'interno proprio di questo perimetro della zona A. Quindi non siamo ai numeri che sentivo dire prima, sì, chiaro, dal presidente della Regione Campania, quindi il problema è più facilmente risolvibile. Non è una attività che abbiamo intrapreso ora, mai da alcuni anni, soltanto che a proposito di questi immobili ricadenti appunto nel perimetro della zona A della Valle dei Templi c'è stato fino a, anche a poco tempo fa, un rimpallo di responsabilità tra comune, sovrintendenza ed ente parco, al quale abbiamo deciso di porre un freno, no più che un freno, un limite, quindi una definizione, anche perché le norme sono chiare. La competenza del comune è solo in caso di inerzia passa alla sovrintendenza. Quindi è il comune che dovrebbe, certo, portare avanti. È il comune al quale è stato ribadito, anche se c'era un contrasto di interpretazione con l'ufficio tecnico, è stato ribadito che è anche alla nuova amministrazione che in primo luogo questa competenza spetta al comune e solo in caso di inerzia alla sovrintendenza. I tre enti sono stati per l'appunto informati di questo, se vogliamo usare questo termine poco tecnico, di quelle che sono le norme che dovrebbero conoscere, anche con recenti circolari dell'assessorato regionale territorio ambiente, e presumo, riteniamo che in tempi abbastanza rapidi si metteranno a sedere per... Mi scusi procuratore, da quanti anni ci sono queste 30 più o meno? Da quanti anni sono lì, nell'inerzia? Guardi, noi abbiamo ereditato queste sentenze, risalgono quando ancora c'erano le preture, quindi al... prima del 1999, quando ci sono state le unificazioni di uffici giudiziari. Cioè mi stai dicendo che sono 15 anni che ci sono le sentenze, anche di più, anche più, sì, anche di più, appunto, e nessuno le abbatte. Abbattere è tra virgolette un costo non solo economico ma principalmente politico per chi lo fa. Visto che qualcuno ci ha speculato sopra prima, magari guadagnandoci, investono quei soldi per abbattere. Io dico solo, forse il presidente Realacci conosce questa realtà, che quando un paio di anni fa siamo riusciti a far abbattere alcuni ecomostri, in particolare nella zona della Scala dei Turchi, che è una zona patrimonio dell'umanità perché è una bellissima zona di mare, il sindaco che ha poi portato avanti quell'operazione di abbattimento non si è ricandidato perché non avrebbe avuto chance di elezione. Abbastanza Realacci, abbastanza chiaro ciò che il procuratore Fonso ci sta dicendo di quella che è poi la connessione, anche i rischi per il politico che dovrebbe portare avanti questi tipi di abbattimenti. Nel caso di Agrigento io mi auguro che questa nuova amministrazione dia subito un segno di legalità, perché è stata appena eletta al primo turno con un grande consenso, deve dare l'idea che si sta cambiando. Aggiungo che se si fossero abbattute quelle case ad Agrigento come da altre parti, ci saremmo risparmiati migliaia di case abusive, perché è chiaro che la casa abusiva nasce perché uno si aspetta che poi di trarre profitto. Ma il problema è che chi è quel politico che accetta, come ci ha detto il procuratore, di non essere rieletto, perché questo è il dato di fatto, no? Di perdere il consenso popolare facendo qualcosa del genere. Se il sindaco non ce la fa, deve essere lo Stato a supplire a questa vicenda. Guardi, io ricordo che parecchi anni fa, tanto per fare un altro esempio concreto, il sindaco Bianco in un mandato precedente fece demolire delle case nell'oasi del Simeto, le fece demolire in assoluto segreto, ci andai anch'io, all'inizio di ottobre, perché erano tutte seconde case. Se lui avesse detto che le andava a demolire, avremmo avuto scene madri con bimbi, cioè, invece siccome erano seconde case, passata la stagione estiva erano disabitate, no? Sì. Bisogna avere un'idea, diciamo, di fermezza, che è quella che salva la legalità. Ripeto, se ci sono da voi dei problemi che sono veramente un'infima minoranza, no? Legati a casi di necessità, bisogna in ogni caso impedire che questo significhi trarre profitto da un'illegalità. Quindi ci sono delle persone che abitano veramente nella prima abitazione, che sono in condizioni di difficoltà, bene, quella casa non è più loro, è dello Stato, sì. E lo Stato le assegna sempre a loro. Beh, mi faccia capire però, Realacci, il problema di De Luca, che dice 80.000 case abusive, avete per esempio anche solo le cave dove mettere il materiale di risulta? Sì, cioè lui approcciava questo dal punto di vista pragmatico, no? Ha fatto un ragionamento paradossale che ha un suo senso, perché è chiaro che se sei arrivato, o avete anche i soldi, perché quanto costa abbattere, certo, 80.000 case? Ma non è che le cose che ha detto De Luca sono delle cose che non hanno un fondamento, no? Peraltro vorrei dire, non saremmo arrivati a 80.000 case abusive se non avessimo avuto le sanatorie precedenti. Ah, beh, questo sì. Questo bisogna dire, e quindi non è che c'è dubbio in materia. Se tu non avessi dato la speranza della sanatoria, la gente non le faceva quelle 80.000 case abusive. Ma io per questo dico, diamo subito un segno di fermezza partendo con le demolizioni, no? Dopodiché facciamo un passo che separi veramente, diciamo, condizioni di necessità da chi invece è assolutamente. Anche in condizioni di necessità non può essere permesso che uno che non ha rispettato la legge danneggi chi l'ha rispettata, perché questo è il problema. Questo è un altro problema. Procuratore Fonzo, io vorrei concludere, le chiedo un giudizio, ma da uomo di legge, non le chiedo di intervenire sulla vicenda della campagna, ma ha sentito anche lei le parole di De Luca. Da procuratore, che effetto le fa sentire questo pragmatismo dell'amministratore della cosa pubblica che dice, che devo fare io 80.000 case, escludiamone alcune, ma poi per le altre, insomma, non ci sono le cave di risulta, non ci sono i costi, e quindi vale perfettamente dal punto di vista tecnico quello che diceva il presidente Realacci. Se si tratta di abusivismo di necessità, la legge prevede l'acquisizione al patrimonio pubblico, e quindi è chiaro, se non si può arrivare alla demolizione totale, ci sono altri strumenti normativi che consentono la risoluzione del problema. Quindi questa è una risposta che si può dare. Io intanto vi ringrazio, su questo tema torneremo, perché è un tema che sul quale battiamo molto, e come avete sentito è un tema che vedo anche dalle telefonate degli ascoltatori, qualcosa adesso prenderò dopo la pubblicità. Intanto vi saluto e vi ringrazio Ermete Realacci, deputato del PD e presidente della Commissione Ambiente, e Ignazio Fonzo, che è il procuratore aggiunto di Agrigento, sono stati con noi. Dopo la pubblicità parleremo un po' della situazione migranti, avremo la storia di un professore di liceo classico che a Treviso si è preso in casa sei immigrati. Sei, ci racconterà perché, e anche gli ascoltatori, tra poco. State ascoltando un programma offerto da... Con la rete Interplanet, il tuo business cresce alla velocità della fibra. Interplanet.it. Allora, ascoltatori, 800 24 00 24, quando si parla di abusivismo poi gli italiani si scatenano. È un tema molto sentito. Ci ha chiamato Fedele dalla provincia di Cuneo. Buongiorno Fedele. Buongiorno. Dica. Volevo segnalarle il mio caso invece. Sì. E anche se sono stato considerato un abusivista e un delinquente, ho costruito, io ho un'azienda agricola, sì, ho costruito una serra senza cemento. Quindi ho preso dei piedi di ferro, li ho piantati per terra, ho fatto la mia serra. Mm-hmm. Dopo un anno il comune mi ha mandato un'ordinanza dicendo che era un'opera abusiva. Perché? Ma è vero? Codice civile, se è più alto, il manufatto è più alto di 3 metri e sta lì per più di 3 mesi, è una cosa abusiva. Io ho avuto poi 90 giorni per demolirla, se no mi avrebbero espropriato il terreno, demolito l'opera e addebitato il costo. Cioè lei dice, rispetto a quello che si sente in altre regioni o in altre situazioni, ne fa un po'... La mia domanda, a me viene la pelle d'oca, o per dire, ma com'è possibile, abbiamo veramente due Italie? Mm. O comunque la legge è uguale per tutti oppure no? Io ho dovuto far fuori una serra, un'azienda agricola, quindi ci lavoro con quello, l'ho dovuta far fuori, l'ho dovuta togliere, perché era abusiva, perché non davo 5 metri a un vicino e perché non ho chiesto il permesso di edilizia per fare una cosa. Dica la verità, che è il vicino che l'ha denunciata. Beh, certo. Sì, beh, certo, succede sempre così. Perché poi sono le invidie, le cattiverie. Lo so, Fedele, quello poi è alla base di tutto. Fedele, la ringrazio per questa testimonianza. Raffaello dalla Spezia, buongiorno. Buona giornata. A lei. Salve, buona giornata a tutti da Raffaello di La Spezia. Io dico, ma mentre è apprezzabile il pragmatismo di De Luca per abbattere con criterio case, beh, io credo invece che tra N anni ne troveremo non 80, ma 100.000. E allora dico, perché non chiudere le utenze a queste case? Queste case che sono fuori legge, fra virgolette, chiudiamogli le utenze, saranno inservibili. È il primo passo. Cioè le dice togliamogli l'acqua, togliamogli l'elettricità. Beh, l'acqua non si può togliere, credo, per legge, proprio perché è un bene primario. Togliamogli l'elettricità, togliamogli il gas, facciamoli vivere... rendiamo molto, le case molto spesso magari sono allacci abusivi a volte, magari a volte sono allacci abusivi, poi però effettivamente poi ci sono i comuni che guadagnano, ci sono le aziende che guadagnano su queste utenze, per cui è tutto un sistema effettivamente illegale che poi si alimenta. Lei però fa questa proposta e la ringrazio, Raffaello, tanto torneremo su questo tema, Non vi preoccupate che torneremo, ma intanto voglio presentarvi un ospite, un signore. Spesso quando si parla di immigrazione io mi tengo e ci teniamo abbastanza a larga in questi giorni al dibattito, io direi anche francamente puerile, che c'è da parte dei nostri politici amministratori nel gestire una questione molto molto delicata, sicuramente quella dell'immigrazione. Lo facciamo invece attraverso la storia di un signore, Antonio Silvio Calò, che saluto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Lei è insegnante di storia e filosofia al classico Canova di Treviso quindi in quel Veneto dove c'è molto dibattito sulla questione migranti, ha deciso di aprire la propria casa a sei giusto ragazzi provenienti da Nigeria e Gambia e Ghana. Ghana, cioè Gambia o Ghana, due, quindi Nigeria, Gambia e Ghana. Perché lo ha fatto, signor Calò? Ma prima di tutto su un piano civile, nel senso come cittadino. Non ritengo giusto che un cittadino debba sempre pensare che lo Stato sia altro, prima di tutto siamo noi. Quindi lei si è sentito di dover dire, visto che molti dicono prendeteveli in casa, lei lo ha fatto, sei certo. Ragazzi. Ma come si fa così, attraverso un'associazione? Certo, noi ci siamo, chiaramente mi sono fatto avanti in prefettura e loro hanno notato la mia disponibilità. Però chiaramente in questi casi non è il singolo cittadino, ma bisogna appoggiarsi, come diceva giustamente lei, tramite un'associazione. In questo caso io mi sono appoggiato a un'associazione che si chiama Circolo Hilal, sì. Di un presidente Abdallah Staraji, cioè un marocchino che è da tanti anni qui presente. E che di fatto gestiscono loro, insomma, quindi i migranti, esatto, e poi li hanno mandati. Gestiscono in questo modo, cioè io ho chiesto una persona, però ho chiesto una persona che avesse problemi, cioè dato che c'è una polemica su come vengono impiegati i soldi, sì, e dove vanno a finire, no? Ecco bene, io ho chiesto intanto che potesse essere presente qua una persona trevigiana, qua del posto, sì, che ha perso il lavoro. Sì. E che ha bisogno di lavorare. Cioè, perché spieghiamo agli ascoltatori, l'abbiamo detto tante volte, lo Stato garantisce 35 euro non all'immigrato. Non siamo convenzionati, questa non è convenzionata, quindi sono 30 euro al giorno. 30 euro al giorno per ogni immigrato, che non vanno all'immigrato, sì, ma vanno a chi deve poi provvedere con vitto alloggio. Per cui lei 3 per 6 sono 180 euro che arrivano, diciamo. Sì. E lei ha detto però con questi 180 euro al giorno io voglio una persona, sì, che si occupi di queste 6 persone. Assolutamente, perché io lavoro e sono via mattina e anche spesso il pomeriggio, e così anche mia moglie. E poi io ho 4 figli, quindi ho anche un obbligo da fare. Figli. Vabbè, ma com'è la gestione della vita quotidiana con queste 6 persone che vivono? Molto, ma guardi, le ripeto, il fatto di aver avuto sempre una famiglia numerosa non è che mi crei molto problemi sotto questo aspetto, loro sono molto disponibili, stiamo vedendo anche come, e questo secondo me è forse la cosa più bella, cioè io non ho intenzione soltanto di ospitarvi, io ho intenzione di avviare un discorso serio sul piano della legalità. Mm-hmm. Chi vuole restare in Italia deve comunque rispettare le leggi italiane e seguire una procedura per poter restare in maniera giusta e corretta. Sì. Così anche è giusto far proporre un percorso di istruzione, di formazione, perché imparare la lingua vuol dire una cosa molto importante, e così anche stiamo avviando un discorso con alcune cooperative, e non solo cooperative ma aziende, per vedere di un graduale inserimento nel lavoro. Sì, questo bisogna capire, se perché se hanno diritto a essere lo stato, a avere lo status di profughi, credo che non possano lavorare finché non è... No, i primi sei mesi loro non possono lavorare. Esatto. Dopodiché però io, la mia intenzione è quella di, se ce la facciamo, di poterli tenere un po' più di tempo, e anche perché sono situazioni familiari abbastanza particolari, anche quelle che sono qui presenti. E in loro c'è, da quello che ho capito in questi primi giorni, c'è l'intenzione di rimanere. Senta, ma mi dica un po', non è che tutti l'avranno accettata un po', è sembra un po' una pagina da radio libro cuore, no? Non tutti avranno accettato con grande entusiasmo questa sua decisione, immagino. No, però me lo lasci dire, no, in questo momento il grado di civiltà di uno Stato non lo si dimostra parlandoci addosso l'uno con l'altro, tirandoci pietre. No, mi dispiace. Il grado alto è il dialogo, è mettersi di fronte ai problemi concreti e risolverli insieme, non uno contro l'altro, anche perché di colpe politiche, visto che è dal 96 che sbarcano i migrati, di colpe politiche ce l'ha la destra, la sinistra, centro, bianchi, rossi e verdi. Non è questo d'accordo, sono d'accordo con lei, nessuno è stato riuscito a gestire questa situazione. Non è questo il momento di litigare tra di noi, questo è il momento di far vedere che siamo un popolo civile, un popolo che sa organizzarsi e che sa rispondere alle esigenze del momento storico. Questo è il momento. Però la critica peggiore che magari le ha fatto più male, qualcuno che per strada magari la incontra e dice: ma che cavolo stai facendo? Ma... Come al solito, chi offende, offende senza guardarti negli occhi, e cioè tramite i social network. Ne ha ricevute un po' di offese. No, centinaia di offese. Cioè, non è che. Però, di cosa l'accusi? Io non ho capito. Perché guardi, arrivano mentre lei parla anche via SMS. Sì, sì. Venduto di un italiano, per esempio. Ecco, questa sì, arriva. Sì, venduto sì, di un italiano, a parte gli insulti. Sì. Ma guardi, non si preoccupi. Il problema fondamentale è la questione economica e giustamente la gravità della situazione per tanti italiani. Sì. Però, come al solito, prima di sparare giudizi sulle persone, chi mi conosce sa perfettamente che io ho sempre ospitato tutti. Cioè, ho ospitato anche persone, amiche che erano in difficoltà, ragazzi che erano in difficoltà, cioè l'ho sempre fatto, è nello spirito. Mi dice perché non dovrei farlo in questo caso? Perché non dovrei farlo, le garantisco. E il fatto stesso, appunto, come le dicevo, io ho invitato anche Zaia e Salvini a venire a casa mia, facciamo due conti, come si dice, della serva, e lei vedrà che i soldi io non ci... Ma l'ha invitati ufficialmente? Che le hanno detto? No, non lo so, non mi hanno ancora risposto. Vabbè, insomma, facciamo un appello pubblico, se volete. Treviso non è lontano da casa di Zaia, credo, vive in provincia di Treviso. Ma posso dirle una cosa? Io sono sicuro, dato che per me tutte le persone hanno una capacità, di persone intelligenti hanno capacità di capire, di comprendere, al di là delle questioni, diciamo, puramente degli slogan o delle questioni politiche, dopo c'è un concreto, e nel concreto, guardi, si arriva sempre a una soluzione. Va bene. Ci si capisce. Allora, facciamo più. Così, fermiamoci qui e lanciamo noi l'appello. Insomma, Matteo Salvini spesso ci ascolta, comunque gli arriverà la voce, lo faremo avere. Zaia, governatore del Veneto, volete accogliere l'invito di Antonio Silvio Calò, professore di liceo classico, il classico Canova di Treviso, che sta ospitando 6 ragazzi, 2 dalla Nigeria, 2 dal Gambia, 2 dal Ghana. Andate a casa sua a vedere, chiacchierate, vedete un po'. Intanto io la ringrazio, è il momento del traffico. Allora, Alessandro da Bergamo ci ha chiamato, credo, sul tema abusivi con cui abbiamo aperto. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, grazie per lo spazio che mi date. Volevo semplicemente dire, io sono allibito nel sentire i suoi ospiti di prima che giustificavano i sindaci di questa loro inerzia per il fatto che poi non vengano successivamente. No, non è che lo giustifica, anzi il procuratore d'Agrigento notava che il sindaco che ha fatto abbattere non è stato eletto, non lo giustificava, diceva notate che non è stato eletto. In questo senso che io sono allibito per il comportamento della popolazione, perché se la popolazione fosse onesta e la maggioranza delle persone si spera sia onesta, sia nella legalità, dovrebbe votare a mani larghe questi sindaci che hanno il coraggio. Quindi sottolineo che secondo me ha ragione l'ascoltatore di prima che diceva ci sono due Italie. Io sono orgoglioso di appartenere a un nord che non è un nord geografico, ma è un nord morale. Va bene, Alessandro, la ringrazio per questa sua testimonianza. Voi come sapete abbiamo una segreteria telefonica, la nostra segreteria, che è questa. Ciao Milan, volevo dirti questo, io ho 60 anni, sono stato buttato fuori dal lavoro con quella legge di Renzi dei licenziamenti collettivi. Sono due mesi che sono in mobilità, stamattina ho preso i soldi, ho preso 670 euro dopo 40 anni di lavoro. L'Italia è messa peggio della Grecia, è inutile che vado a raccontare puttanate. Ciao Milan, suggerisco una soluzione per il debito greco verso l'Europa. Perché non prendono loro i migranti e l'Europa gli toglie il debito? Ciao! Signor Milan, noi vogliamo la soddisfazione, almeno una volta all'anno, ti vogliamo vedere incazzato, ti vogliamo vedere furioso. Il popolo italiano ha dimenticato di essere sovrano, questa è l'unica cosa, e ancora continuano a inchinarsi ai politici. Questi politici bisogna attaccarli alla radro e portarli giù lo campo a ralo terreno. Vabbè, questo è il nostro angelino, vi saluto qui, la segreteria risponde al numero 02 4652 4492 e diteci ciò che volete. A domani.